Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Non ci fu altra ripresa da parte dei rivoltosi. Nemmeno un altro colpo fu sparato dal bosco. Avevano avuto il fatto loro per la giornata, per dirla col capitano, e noi potemmo disporre del luogo e di un periodo tranquillo per accudire i feriti e preparare il desinare. Il cavaliere ed io cucinammo all'aperto, a dispetto del rischio, e anche fuori avremmo potuto a stento dire che cosa stavamo facendo. Tanto era l'orrore degli alti gemiti che ci giungevano dai pazienti del dottore. Degli 8 uomini caduti nell'azione, solo 3 respiravano ancora, e cioè uno dei pirati che era stato colpito alla feritoia, Hunter e il capitano Smollett, e di questi i primi 2 erano da considerare come morti. L'ammutinato infatti morì sotto il bisturi del dottore, e Hunter, per quanto facessimo, non riprese più conoscenza in questo mondo. Languì tutto il giorno, respirando pesantemente come aveva fatto il vecchio pirata a casa mia, quando gli venne il colpo apoplettico, ma nella caduta si era fracassato le costole e il cranio, e nella notte seguente, senza una parola, se ne andò al creatore. Quanto al capitano, le sue ferite erano serie, ma non pericolose. Nessun organo era stato irreparabilmente leso. La palla di Anderson, perché era Job che l'aveva colpito per primo, gli aveva spezzato una scapola e toccato il polmone, ma non irreparabilmente. La seconda palla gli aveva soltanto lacerato e spostato qualche muscolo del polpaccio. La guarigione era indubbia, disse il dottore, ma intanto e per settimane non avrebbe dovuto camminare, né muovere il braccio e quasi nemmeno parlare, per quanto gli fosse stato possibile. Il mio taglio accidentale sulle nocche era un morso di pulce. Il dottor Livesey lo fasciò e mi diede una tiratina d'orecchi come incoraggiamento. Dopo desinare, il cavaliere e il dottore si trattennero un buon po' in conversazione al capezzale del capitano, e quando ebbero conversato a loro piacere poco dopo mezzogiorno, il dottore prese cappello e pistole, si infilò nel cinturone un coltellaccio, si mise in tasca la carta e con un moschetto a tracolla scavalcò la palizzata verso nord e si inoltrò, frettoloso, nel bosco. Gray e io ci eravamo seduti insieme all'estremità opposta del fortino, per non essere a portata di orecchio delle consultazioni dei nostri ufficiali, e Gray, che si era tolto la pipa di bocca, dimenticò addirittura di rimettercela, tanto era rimasto scioccato dagli eventi. «Corpo di un diavolo!» disse. «È diventato matto il dottore?» «No, davvero!» risposi io. «E direi che è l'ultimo del nostro equipaggio che lo possa diventare!» «E allora, amico, bada che non sia matto lui, ma se non lo è lui, segnati le mie parole. Lo sono io!» «Per me!» risposi. «Ritengo che il dottore abbia un'idea sua, e se non sbaglio, ora va a cercare Ben Gunn. Avevo visto giusto, come risultò dopo. Ma intanto, dato che nella casa si crepava dal caldo e che quel quadratino di sabbia del recinto fiammeggiava sotto il sole di mezzogiorno, cominciò a frullarmi per la testa un'altra idea, e non del tutto sensata. Cominciai cioè a invidiare a tal punto il dottore che se la passeggiava nell'ombra fresca dei boschi, circondato dagli uccelli e dalla fragranza dei pini, mentre io me ne stavo lì ad arrostirmi con i panni appiccicosi di resina, con tanto sangue addosso e tutti quei miseri cadaveri intorno, che mi prese un disgusto di quel luogo almeno altrettanto forte della paura. Tutto il tempo che impiegai prima a lavare il fortino e poi a rigovernare le stoviglie della cena, codesto disgusto e codesta invidia andarono facendosi sempre più forti, finché alla fine, trovandomi presso un sacco di pane, mentre nessuno mi osservava, feci il primo passo verso la mia fuga, riempiendomi le tasche di biscotti. Thank you. fui un pazzo, se volete. E certo stavo per imbarcarmi in un'azione pazza e temeraria, ma ero deciso a compierla con tutte le precauzioni che potevo prendere. Quei biscotti, qualunque cosa mi fosse successa, mi avrebbero almeno impedito di morire di fame fino al giorno dopo. La seconda cosa di cui mi impadronii fu un paio di pistole, e dato che già possedevo un sacchetto di polvere e delle palle, mi considerai quanto ad armi provvisto a sufficienza. Quanto al progetto che avevo in mente, non era di per sé cattivo. Intendevo scendere per la striscia di sabbia che, a levante, divideva l'ancoraggio dal mare libero, ritrovare la roccia bianca che avevo notato la sera prima e accertarmi se fosse o no lì che Ben Gunn aveva nascosto la sua barca. Ricerca che meritava di essere fatta, come credo tuttora. Ma dato che ero sicuro che non mi sarebbe stato permesso di abbandonare il recinto, l'unico mezzo che avevo era quello di battermela alla chetichella, scivolando fuori mentre nessuno badava. E questo era un così brutto comportamento che rendeva condannabile la stessa azione. Ma non ero che un ragazzo e mi ero ormai deciso. Dunque così, come alla fine si misero le cose, trovai un'occasione magnifica. Il cavaliere e Gray erano occupati intorno alle fasciature del capitano. La costa era deserta. Io fulmineamente scavalcai lo steccato, buttandomi tra il più fitto degli alberi, e prima che la mia assenza fosse notata, non ero già più a portata di voce. E questa fu la mia seconda follia, assai peggiore della prima, dato che lasciavo soltanto due uomini in buone condizioni a difendere il fortino, ma, come la prima, contribuì alla salvezza di tutti. Puntai dritto verso la costa di levante dell'isola perché ero deciso a scendere lato mare per la striscia di sabbia onde evitare il rischio di essere scoperto dall'ancoraggio. Il pomeriggio era già avanzato, quantunque ancora caldo e soleggiato. Continuando a percorrere boschi di alto fusto, potei udir di lontano, in faccia a me, non soltanto il tuonare continuo della risacca, ma un certo fruscio tra il fogliame e un'agitazione tra i rami che mi avvertirono che la brezza marina si era alzata più forte del consueto. Ben presto mi giunsero folate d'aria fresca e pochi passi dopo sboccai sui margini del bosco e vidi il mare stendersi azzurro e scintillante fino all'estremo orizzonte e la risacca rompersi e spruzzar le sue spume lungo la baia. Non ho mai visto il mare tranquillo intorno all'isola del tesoro. Il sole poteva percuoterci a picco, l'aria stagnare immobile, la sua superficie essere liscia e azzurra, e pur sempre quei cavalloni continuavano a rovesciarsi lungo tutta la costa esterna, tuonando e rimbombando. Credo che non esistesse nemmeno un punto nell'isola in cui un uomo potesse levarsi dalle orecchie quel loro fragore. Camminai lungo la risacca con molto piacere, finché ritenendo di essermi ormai portato abbastanza verso ponente, mi misi al riparo di certi fitti cespugli e mi insinuai cautamente sul crinale della striscia di sabbia. Dietro di me avevo il mare, di fronte l'ancoraggio. La brezza marina, come se si fosse esaurita prima del tempo a causa della sua insolita violenza, era già caduta e le erano succeduti leggeri e variabili venticelli da sud-sud-est che si portavano dietro larghi banchi di nebbia. E l'ancoraggio, sotto vento rispetto all'isola dello scheletro, giaceva tranquillo e plumbeo, come la prima volta che ci eravamo penetrati. La Hispaniola, in quello specchio d'acqua intatto, si rifletteva dalla cima degli alberi alla linea di immersione, con la sua bandiera nera, appesa all'albero maestro. Thank you. Lungo la murata era accostata una delle lance, con Silver, lui lo riconoscevo sempre, al banco del timoniere, mentre un paio di marinai si chinavano sui parapetti. Uno di essi, con la papalina rossa, era quello stesso Ribaldo che avevo visto poche ore prima a cavalcioni della palizzata. Sembrava che discorressero o ridessero, quantunque a quella distanza di più di un miglio non potessi naturalmente afferrar sillaba di quanto stavano dicendo. A un tratto si alzò di là il più orrendo, infernale schiamazzo, che sulle prime mi fece trasalire di spavento. Ma poi riconobbi la voce del capitano Flint e mi parve anche di identificare dal variopinto piumaggio l'uccello stesso, posato sul polso del suo padrone. Poco dopo la barchetta si staccò dirigendosi a riva e l'uomo dalla papalina rossa e il suo compagno scesero sotto coperta per la scaletta della cabina. Quasi nello stesso momento il sole tramontò dietro il canocchiale e, dato che la caligine veniva addensandosi rapidamente, cominciò presto a farsi scuro. Capii di non aver tempo da perdere se volevo trovare l'imbarcazione quella sera stessa. La rupe bianca, abbastanza visibile al di sopra dei cespugli, era ancora circa un ottavo di miglio distante, sotto alla lingua di sabbia, e mi ci volle del bello e del buono per arrivarci, strisciando spesso sulle quattro zampe attraverso la macchia. Erano già scese le tenebre quando potei posare la mano sulla sua ruvida parete. Proprio sotto la roccia si trovava una piccolissima buca di terreno erboso, nascosta dalle sponde e da un fitto macchione alto fino al ginocchio, che vi cresceva rigoglioso, e nel centro dell'avvallamento vi era una vera e propria minuscola tenda di pelli di capra, simile a quella che si portano dietro gli zingari in Inghilterra. Saltai nella buca, alzai l'orlo della tenda e ci trovai l'imbarcazione di Ben Gunn. Lavoro casalingo, se altro mai. Una rozza, ricurva carcassa di solido legname foderata di pelli di capra. Era eccessivamente piccola, anche per me, e non riuscivo a capacitarmi che potesse galleggiare con dentro un adulto. Vi si trovava un banco da rematore, collocato più basso possibile, una specie di pedana fra le due estremità e una doppia pagaia per sospingerla. Non avevo fino allora mai visto una delle piroghe che costruivano gli antichi britanni, ma ne ho vista una in seguito, e non potrei dare approssimazione migliore di quel che fosse l'imbarcazione di Ben Gunn che paragonandola alla più primitiva e peggiore piroga che mai uomo abbia costruito. Ma certamente possedeva il grande vantaggio delle piroghe di essere leggerissima e portatile. Dunque, ora che l'imbarcazione l'avevo trovata, avreste detto che dovessi averne abbastanza della mia scappata. Ma nel frattempo mi era balenata alla mente un'altra idea e mi ci ero talmente attaccato che credo l'avrei messa in atto anche a dispetto dello stesso capitano Smollett. E quest'idea era di sgusciar fuori, protetto dal buio, tagliare gli ormeggi della Hispaniola e lasciarla andare alla deriva contro la costa, a suo capriccio. M'ero venuto persuadendo che i rivoltosi, dopo lo scacco subito la mattina, nulla avessero tanto a cuore quanto salpar l'ancora e prendere il largo. Sarebbe stato un bel tiro prevenirmi, e ora che avevo constatato come lasciassero i loro guardiani privi di imbarcazione, ritenevo di poterlo fare con un rischio minimo. Mi sedetti ad aspettare le tenebre e mi rimpinzai di gallette. Era una notte perfetta per il mio progetto. La nebbia, adesso, aveva coperto tutto il cielo. Man mano che gli ultimi bagliori della luce del giorno venivano abbassandosi e scomparendo, l'oscurità più assoluta si stabiliva sull'isola del tesoro. E quando finalmente mi issai sulle spalle alla piroga e, inciampando a tentoni, mi aprii una via di uscita dalla buca dove avevo cenato, non vi erano che due punti visibili in tutto l'ancoraggio. Uno era il grande falò sulla riva, presso il quale i rivoltosi sconfitti stavano gozzovigliando nella palude. L'altro, un indistinto alone di luce nelle tenebre, indicava la posizione della goletta all'ancora. La corrente l'aveva fatta virare, ora si presentava di prua, e gli unici lumi di bordo erano nella cabina, così che quello che vedevo non era che il riflesso sulla nebbia dei forti riverberi che filtravano dalla finestra di poppa. La marea da qualche tempo era discesa e fui costretto a guadare attraverso un lungo banco di sabbia pantanosa, dove affondai non poche volte fin sopra la caviglia prima di giungere al mare, e guardandoci dentro per pochi passi riuscii con un po' di forza e di abilità a deporre la mia piroga con la chiglia in giù sul pelo dell'acqua. La piroga, come ebbi modo di constatarlo fin troppo prima di levarmela di torno, era sì un'imbarcazione più che sicura per una persona della mia statura e complessione, e insieme elastica e ingegnosa quanto a tenere il mare, ma era anche lo scafo più capriccioso e sghembo da governare. Avevate un bel darvi da fare. Finiva per mettersi sempre alla deriva, e quel suo girarsi e rigirarsi intorno era la manovra che meglio le riusciva. Lo stesso Ben Gunn aveva ammesso che fosse dura da governare finché non si conoscessero le sue abitudini. Certo, le sue abitudini io non le conoscevo. Virava in tutte le direzioni fuorché in quella in cui desideravo andare. La maggior parte del tempo avanzavamo di traverso e io sono più che certo che non avrei mai abbordato la nave se non fosse stato per la marea. Per fortuna, anche vogando a casaccio, la marea continuava a spingermi avanti e là galleggiava la Hispaniola, diritta alla mia rotta, che difficilmente l'avrei mancata. All'inizio mi appariva come una massa più buia del buio, poi il suo scafo e i suoi alberi cominciarono a precisarsi, e un momento dopo, così mi parve, perché più avanzavo e più la corrente del risucchio si faceva gagliarda, mi trovai a fianco della gomena dell'ancora e mi ci afferrai. La gomena era tesa come la corda di un arco, così fortemente la nave tirava sull'ancora. Tutto intorno allo scafo, nel buio, la corrente di risucchio bolliva e ciangottava come un torrentello montano. Un taglio col mio serramanico e la Hispaniola se ne sarebbe filata ronzando sulla marea. E meglio così. Ma mi ricordai subito che un cavo teso, tagliato di colpo, è faccenda pericolosa quanto un cavallo che scalcia. 9 su 10 se fossi stato così temerario da tagliare il cavo che legava la Hispaniola alla sua ancora, io e la piroga saremmo stati nettamente sbalzati fuori dell'acqua. Ciò mi indusse a fermarmi in tempo. E se il caso non mi avesse specialmente favorito, avrei dovuto abbandonare il mio progetto. Ma quei leggeri venticelli che avevano cominciato a soffiare da sud-est e da sud si erano girati, scesa la notte, a sud-ovest. Proprio mentre stavo riflettendo, mi giunse una folata. Batté contro la Hispaniola e la spinse controcorrente, cosicché con mio gran giubilo sentii allentarsi il cavo nella mia presa e la mano con cui lo tenevo si tuffò per un secondo nell'acqua. Ciò mi decise. Tirai fuori il mio serramanico, lo aprii con i denti e tagliai una funicella dietro l'altra, finché il veliero non si resse più che su due. Poi mi rimisi tranquillo, aspettando, per tagliar quelle, che il cavo fosse di nuovo allentato da un soffio di vento. Per tutto questo tempo avevo udito forti rumori di voci provenienti dalla cabina, ma per dire il vero la mia mente era stata così assorbita da altri pensieri che vi avevo dato poco ascolto. Ora però che non avevo altro da fare, cominciai a prestare maggiore attenzione. Una voce che riconobbi era quella del timoniere, Israel Hans, che era stato cannoniere di Flint nei tempi andati. L'altra era certamente quella del mio amico dalla papalina rossa. Tutti e due erano ubriachi fradici e dovevano continuare a bere, perché anche mentre stavo in ascolto, uno di loro, con un bercio da beone, aprì il finestrino di poppa e lanciò fuori qualcosa che intuì dovesse essere una bottiglia vuota. Ma non erano soltanto ubriachi. Era chiaro che dovevano essere maledettamente infuriati. Le bestemmie fioccavano come chicchi di grandine e di quando in quando scoppiava una tale esplosione che io pensavo non potesse finir che a botte. Ogni volta, però, la baruffa si placava e le voci si abbassavano per un po', finché non sopravveniva un'altra crisi che, a sua volta, si sedava senza costrutto. Thank you.